sono il capone della mafia. Io sono il figlio della mia mamma. Tu sei un estroncio di merda. È un filo di Troia in Venezia. Venezia, Venezia, Venezia, cia, cia, cia, lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.